Allora, quindi diamo, questa volta è proprio l'ultima relazione che abbiamo. Il professor Teodor Dimitrov, che è direttore del Foyer Européen de la Culture du Pays, che ci parla, credo in italiano, su emigrazione reciproca delle popolazioni nei Balcani dopo la prima guerra mondiale, l'esperienza tra la Bulgaria e la Grecia, tra la Grecia e la Turchia. Professor Dimitrov, per favore, parola. Il fenomeno delle minoranze permette d'essere visto come un ponte o un fossato fra stati e popoli, come ci dice l'illustre professor Ermacora. Detto fenomeno può contarsi fra le cause principali delle guerre del XX secolo. Dei diversi aspetti che esso presenta, nostro compito sarà di discutere brevemente lo scambio di popolazione come metodo di epurazione etnica fra paesi vicini. Lo scambio di popolazioni modificò il principio della tutela delle minoranze, in quanto questa soluzione radicale tentava di raggiungere, tramite il rimpatrio dell'elemento minoritario, l'omogeneità nazionale. Fra le soluzioni finalizzate a incidere sullo stato del problema delle minoranze, come l'assimilazione, la colonizzazione, lo scambio di popolazioni, il genocidio, lo scambio reciproco di popolazioni o il trasferimento unilaterale di una popolazione apparve le più accettabile, soprattutto nell'immediato dopoguerra. L'idea di uno scambio di popolazioni fra paesi vicini sembra essere di origine turca. La politica di ottomanizzazione inaugurata da Abdülhamid e dai giovani turchi si manifestò per la prima volta sulla base del Trattato turco-bulgaro di Costantinopoli del settembre 1913. Lo scambio riguardava musulmani e bulgari residenti lungo la frontiera turco-bulgara in una fascia di 15 chilometri. Dichiarata come volontaria, questa immigrazione fu interpretata come obbligatoria. Risultato? 9.400 famiglie bulgare, circa 49.000 persone della Tracia orientale, vennero trasferite in Bulgaria e 9.700 famiglie musulmane, circa 49.000 persone, vennero a loro volta trasferite in Turchia. Una commissione mista turco-bulgara fu istituita ad Adrianopoli con il compito di vigilare sull'evacuazione e sulla liquidazione della proprietà abbandonate. La nostra attenzione si rivolge agli scambi di popolazione decisi a livello diplomatico multilaterale e condotti sotto l'egida di un'organizzazione internazionale, nel nostro caso la Società delle Nazioni. A regolare questa esperienza nei Balcani furono due strumenti giuridici: la Convenzione fra la Grecia e la Bulgaria sull'emigrazione reciproca e volontaria delle minoranze etniche, firmata a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1910, la convenzione riguardante lo scambio di popolazione greche e turche con protocollo annesso firmati a Losanna il 30 gennaio 1923. Occorre almeno ricordare che la dichiarazione albanese relativa alla protezione delle minoranze del 2 ottobre 1920, depositata presso la Società delle Nazioni, prevedeva anche essa un trasferimento di minoranze. Successivamente, il trasferimento di popolazione venne sancito come principio dalle tre grandi potenze Stati Uniti, Unione Sovietica e Inghilterra nella dichiarazione di Potsdam il 2 agosto 1945 con riguardo alle popolazioni tedesche dell'est europeo. Il principio del scambio di popolazione fu motivato col cattivo trattamento riservato alle minoranze che rendeva la loro vita di fatto impossibile e con le frizioni politiche fra gli stati che presentavano affinità etniche con le minoranze rispettive. La ricerca di una omogeneità nazionale implicava un ben preciso razionalismo assai nocivo per le sue aberrazioni assolutizzanti e incondizionate. Il modo di pensare quantitativo in materia di minoranze ha condotto al genocidio e al trasferimento di popolazioni di questo secolo. Un simile approccio portava a misconoscere le necessità della vita, vale a dire la qualità, le strutture e le forme stesse della vita. Wilhelm Röpke sottolineava le devastazioni del razionalismo nella politica estera nel modo che segue. Evidentemente esso non è in grado di riconoscere le forze vive di una nazione radicata nella profondità del suo suolo, forze queste scoperte dal romanticismo e dai suoi precursori. Da qui deriva la tendenza del razionalismo a costruire stati per mezzo di un atlante e un righetto, così come la frequente mancanza di comprensione per le diversità nazionali dell'Europa. Lo scambio di popolazioni fu praticato su due forme: volontaria, esemplificata dall'esperienza greco-bulgara che creò appunto il modello di una immigrazione di detta volontaria, forma obbligatoria. Lo scambio di popolazioni greca e turca fu un esempio di una epurazione etnica forzata che fece immediato seguito al confine greco-turco del 1922 in Asia Minore. Quale che sia la forma dello scambio di popolazione, in occasione dei negoziati occorreva fossero presenti alcune condizioni. Primo, il numero delle persone da trasferire doveva essere per le due parti approssimativamente uguale. Due, i due paesi dovevano possedere terra sufficiente per stabilirvi gli emigranti. Terzo, occorreva la disponibilità di risorse finanziarie per assicurare la sistemazione degli emigranti e compensare le loro perdite. Occorreva infine un organismo internazionale che sorvegliasse dal punto di vista giuridico, economico e umanitario il processo dello scambio di popolazione. La Commissione per l'emigrazione greco-bulgara ha dispiegato la sua attività sotto il controllo della Società delle Nazioni, dal 1920 al 1931. La commissione greco-turca venne dichiarata indipendente e ha lavorato per un periodo di 10 anni, dal 30 gennaio 23 all'ottobre 34. L'esistenza e l'attività di queste commissioni non coincisero esattamente come il periodo vero e proprio dello scambio di popolazione. Ad esempio, lo scambio di popolazione greco-turca cominciò nel novembre 23 e si concluse nel dicembre 24. Le due esperienze di epurazione etnica differivano riguardo taluni principi e disposizioni contenute nelle due convenzioni per l'emigrazione. Così, ad esempio, il principio dell'opzione accordata ai membri della minoranza bulgara in Grecia non venne riconosciuto per i greci che si trovavano in Asia Minore. Le persone che dovevano venire espulse rispettivamente dalla Grecia e dalla Turchia erano discriminate sulla base della loro religione e non della loro razza. Sono stati scambiati cristiani greco-ortodossi contro musulmani. Questo principio di espulsione era molto difficile ad applicarsi per popolazioni che presentavano caratteri assai complessi. Ad esempio, i Pomak erano di origine e di lingua bulgara, ma musulmani di religione. I musulmani a Creta parlavano il greco ed erano di origine ellenica. In questo senso si è cercato di evitare l'espulsione dei musulmani della Tracia occidentale e dei musulmani di origine albanese. Gli abitanti di Sciamuria, nel distretto dell'Epiro, rappresentavano un caso particolarmente difficile. Erano infatti discendenti dei greci epiroti, parlavano la lingua albanese, di religione erano musulmani e politicamente simpatizzavano per i turchi. Epurazione etnica in Grecia e Bulgaria, i risultati, brevemente. L'esperienza della commissione mista greco-bulgara ha contribuito a creare un modello internazionale per l'emigrazione volontaria. Essa presenta particolare interesse per i punti seguenti. Primo, veniva mantenuto il diritto di opzione per i membri delle minoranze bulgara e greca. Secondo, il processo dell'emigrazione si svolse parallelamente con l'entrata in vigore del Trattato greca per la protezione delle minoranze in Grecia. Terzo, il protocollo greco-bulgaro di 1924, Kalf of Politis, provò ad investire la commissione mista di compiti supplementari, garantire un giusto trattamento delle minoranze e sorvegliare l'applicazione delle norme del trattato per le minoranze. Infine, l'interpretazione della Corte di Giustizia Internazionale su talune disposizioni concernenti le comunità bulgare e greche diede l'occasione per deliberare sulla definizione e il significato della nozione di minoranza. La commissione era composta da due membri neutrali, il colonnello Corfe, cittadino britannico di origine neozelandese, e il maggiore Marcel de Ruver, belgio, che fu successivamente sostituito dal colonnello svizzero James de Renier, e inoltre da due o tre membri di rappresentanza di Grecia e Bulgaria. La commissione disponeva di un segretario atto e di un personale ausiliario di circa 39 unità. La Grecia e la Bulgaria si erano assunte tutte le spese della commissione. Nel 1922 si cominciò a costituire sottocommissioni incaricate della esecuzione tecnica e amministrativa dei dossier. Nel 1926 si contavano 11 sottocommissioni, di cui 4 sul territorio bulgaro e 7 sul territorio greco. Verso il 1928 il numero delle 7 commissioni fu ridotto a 2. La commissione ebbe a fronteggiare un enorme lavoro dovuto all'estensione del suo mandato alla Tracia occidentale annessa alla Grecia e al rinvio per ben 3 volte della data ultima valida per emigrare. La propaganda dei partiti politici che sconsigliarono i rifugiati ad emigrare e che volevano proibire il loro rimpatrio, il distacco del governo bulgaro che lasciava ad ogni rifugiato la decisione di liquidare o meno i suoi beni immobili tramite la commissione, ovvero di attendere l'applicazione del trattato per le minoranze che non era ancora entrato in vigore per la Grecia. Il disastro militare greco in Asia Minore e l'afflusso nell'estate e nell'autunno 1922 di circa 1,5 milioni di greci espulsi dall'Asia Minore, tutti questi fattori aggravarono la situazione della popolazione bulgara in Tracia occidentale e nella Macedonia marittima. Inoltre si praticò continuamente una pressione amministrativa, politica e morale in favore dell'alternativa all'esilio. I rifugiati greci richiedevano un assediamento ad Atene o nel sud del paese. L'indigenza obbligava una buona parte di essi ad occupare le case e le terre bulgare abbandonate dai loro proprietari. Gli organi militari e di polizia procedevano spesso all'internamento di famiglie in isole dell'Egeo. Tutta la politica del governo aveva un solo obiettivo: obbligare la popolazione bulgara ad emigrare. Al contrario, la catastrofe greca in Asia Minore scoraggiò la minoranza greca in Bulgaria ad emigrare. Da questi circoli le richieste collettive di emigrazione cessarono in circa dal novembre 1922. All'espirare del periodo previsto per le domande di emigrazione, la commissione mista greco-bulgara offriva al 1 gennaio 1929 al Consiglio della Società delle Nazioni a Ginevra statistiche più o meno definitive. 17.000 casi di emigrati greci, di cui 10.000 liquidate, vale a dire il 63%. 28.000 casi di bulgari, di cui 11.000 dalla Tracia occidentale e 16.000 della Macedonia marittima. 19.000 erano state liquidate, vale a dire il 68%. Su un totale di 46.000 casi, la Commissione ne aveva regolate a quella data 30.000 e ne rimanevano dunque in evasi 15.000 casi. Su richiesta del Consiglio, sollecitato in questo senso da Chamberlain, il 3 settembre 27, la Commissione per l'immigrazione greco-bulgara presentò un memorandum sulla sua missione e sulle sue attività per il regolamento di questioni tecniche e finanziarie. Le statistiche che contenute erano pressoché definitive e valgono come autorevole punto di riferimento. 92.000 membri della comunità bulgara in Grecia si avvalsero della Convenzione per l'emigrazione e 46.000 membri della minoranza greca in Bulgaria fecero altrettanto. Il censimento greco del 1928 indicava in 82.000 il numero dei bulgari rimasti in Grecia. Diverse migliaia di richieste di emigrazione furono dichiarate non ricevibili a causa della loro ritardata presentazione oltre il limite temporale fissato. Di conseguenza, l'obiettivo della terza tappa dell'attività della Commissione, che va dal luglio 29 al settembre 31, consistette nel regolare la liquidazione dei casi rimasti in sospeso. Per regolare la compensazione dei 50.000 casi in sospeso, la Commissione fece stime pari ai valori seguenti: 21 milioni di dollari per la copertura dei beni dei rifugiati bulgari, 10 milioni di dollari per la copertura dei beni dei rifugiati greci. Il prezzo degli immobili liquidati, così come era stato fissato dalla commissione mista, veniva pagato in parte in contanti, in parte in obbligazioni nominative appositamente emesse dai rispettivi governi. La quota delle parti pagate in contanti era generalmente pari al 10% del valore del bene liquidato. Le obbligazioni producevano interessi che, dato che costituivano fondi di Stato e in più erano coperte da garanzie speciali necessarie per rendere possibile all'interessato la immediata monetarizzazione di questi titoli nel suo paese di destinazione in vista di un suo nuovo insediamento. Per la conversione dei crediti dei due governi faceva la base il dollaro americano. Il deprezzamento delle obbligazioni causato dalla crisi economica mondiale provocò gravi danni agli interessi dei rifugiati. La tutela delle proprietà degli emigranti era espressa dall'articolo 20 del regolamento che statuiva: nessun candidato all'emigrazione può venire obbligato a lasciare il paese, ovvero venire espropriato dei suoi beni prima di aver ricevuto il pagamento integrale di questi ultimi nelle forme previste. La stima dei valori dei beni comunitari greci e bulgari vennero regolate su base bilaterale. Rimase al fine una somma di 7 milioni di dollari come debito greco nei confronti della Bulgaria. Dopo 11 anni di attività, la Commissione greco-bulgara poté presentare un bilancio positivo all'Assemblea della Società delle Nazioni del 1931. Epurazione etnica in Grecia e in Turchia. Il dibattito sullo scambio obbligatorio di popolazione greche e turche ebbe luogo in condizioni particolarmente difficili. occorreva accettare il fatto compiuto, vale dire l'esistenza di più di 1 milione di rifugiati greci provenienti dall'Asia Minore. Bisognava regolarizzare la situazione della proprietà abbandonata nei due paesi. In più, vi era più il problema di trasferire la popolazione greca rimasta in Turchia e garantire la sicurezza. La guerra dell'Anatolia era stata un enorme massacro e il calcolo diplomatico non poteva nasconderlo in alcun modo. Riassumiamo i principali punti di vista della questione. Nansen, Fridtjof Nansen, fu incaricato dalla Società delle Nazioni di negoziare con i due governi interessati il principio di un scambio di popolazione. La separazione dei popoli del vicino Oriente poteva assicurare la pacificazione fra i due paesi. Il principio di questo scambio era anche nell'interesse delle grandi potenze. La questione implicava però gravi difficoltà. Lo spostamento di una popolazione di oltre 1 milione di persone, strappare alle loro case per venire trasferite in un paese che era loro sconosciuto, la registrazione, la stima e la liquidazione dei beni personali, il pagamento degli indennizi. Nansen prese a riferimento gli esperti della Commissione greco-bulgara per affermare che gli aspetti tecnici dell'emigrazione non erano insormontabili. Certo, lo scambio imponeva sofferenze umane immense e l'impoverimento di molti emigranti, dato che la situazione economica in Turchia e in Grecia non permetteva un alleggerimento di questi inconvenienti. Nansen sottolineò che lo scambio doveva essere rapido e completo. La grave crisi provocata dalla guerra poteva provocare una nuova tragedia. Nansen sostenne anche la necessità di istituire una commissione mista sotto il controllo della Società delle Nazioni incaricata dell'esecuzione del scambio, e ciò nonostante che la Turchia non fosse ancora membro della società. Presentando la tesi turca, İsmet Paşa in ONU accetta che ci procedesse allo scambio il più presto possibile. Egli attirò l'attenzione sul fatto che la Tracia orientale non era stata restituita alle autorità turche, che alla data del 30 novembre 22 ed era perciò difficile stimare la capacità abitativa dei villaggi abbandonati. Egli richiese da parte sua che tutta la popolazione greca di Turchia dovesse subire lo scambio, compresa quella di Smirne e Costantinopoli. A suo parere, l'invasione ellenica dell'Anatolia aveva distrutto la regione, mentre le proprietà abbonate dai turchi in Macedonia e in altre regioni greche erano rimaste intatte. İsmet Paşa chiese uno scambio integrale e respinse l'inserzione nel trattato di pace di clausole riguardanti la tutela delle minoranze. Sostenne che il benessere delle minoranze in Turchia era sufficientemente assicurato per effetto della legislazione interna. Secondo lui, una tutela esterna rendeva possibile l'intervento di potenze straniere col pretesto di proteggere le minoranze. L'aspirazione delle minoranze di dare vita degli stati indipendenti si era manifestata nel 22. L'ultima campagna di devastazione ha messo in chiaro i progetti, quotazione, aggressivi dello Stato ellenico sull'Asia Minore. Presentando il punto di vista greco, Venizelos accettò il principio di uno scambio per quanto possibile rapido. In Grecia vi era già più di 1 milione di rifugiati, fra cui 200.000 provenivano da Smirne. Egli affermò che la Tracia orientale e in Anatolia erano abitazioni sufficienti per ospitare 800.000 persone. Venizelos si oppose al principio dello scambio forzato di popolazioni e propose uno scambio volontario. Egli fece di Costantinopoli un caso a parte e si oppose all'emigrazione obbligatoria dei greci che abitavano in questa città. Difese il sistema creato con il trattato per le minoranze e affermò che lo scambio con la Turchia non era equo. La Turchia espelleva 1.600.000 greci per accogliere soltanto 350.000 turchi. Lord Curzon, presidente della conferenza di Losanna, illustrò la posizione delle potenze vincitrici. Secondo lui, il carattere di urgenza dello scambio di popolazione greco-turco imponeva un'azione di forza. Lo scambio volontario rischiava di durare anni interi. Curzon lesse statistiche di fonte americana secondo le quali nel 1914 in Turchia abitavano 1.600.000 greci, nel 1922 non ne rimanevano che 500.000. Costantinopoli contava nel 1914 300.000 greci, nel 1922 il loro numero era in ascesa e raggiungeva le 400.000 unità. L'emigrazione di questi ultimi avrebbe rappresentato una perdita economica per la Turchia. E gli accolse il desiderio espresso da parte della delegazione greca riguardo ai musulmani della Tracia occidentale, che si contavano circa 124.000 musulmani, di cui non si chiedeva l'espulsione. Al fine, i turchi dovettero accettare le clausole per la protezione delle minoranze che vennero inserite con articoli 37 a 45 nel Trattato di Losanna. Non erano compresi nello scambio gli abitanti greci di Costantinopoli, gli abitanti musulmani della Tracia occidentale. Il risultato finale dell'epurazione etnica tramite scambio obbligatorio di cittadini turchi di religione greco-ortodossa e dei cittadini greci di religione musulmana fu il seguente: 348.000 musulmani emigrarono in Anatolia, il numero negoziato era invece di 380.000. 94.000 greci d'Anatolia, 18 della Tracia occidentale e 38.000 persone passibili di scambio di Costantinopoli vennero espulsi per un totale di 150.000 greci, il numero negoziato era di 500.000. Conclusioni. L'esperienza dello scambio di popolazioni ha scosso la fiducia nell'efficacia dei trattati per la protezione delle minoranze nella regione. Le due convenzioni concernenti le emigrazioni nei Balcani facevano parte del sistema della società delle nazioni riguardante le minoranze. Dal punto di vista del Stato, l'obiettivo perseguito con l'applicazione delle convenzioni era assoluto e incondizionato: la ricerca dell'omogeneità nazionale. Misure coercitive accompagnarono ogni scambio o trasferimento di popolazione, si trattasse di scambi volontari ovvero forzati. Dal punto di vista dei diritti umani, lo scambio di popolazione divenne oggetto di mercanteggiamento politico a livello governativo. L'emigrazione significava sofferenze, miserie economiche e morali, stradicamente da quella che veniva considerata come la propria casa. Sprovvista di ogni base legale, questa esperienza di scambio di popolazione ha colpito i diritti di proprietà e la libertà pubbliche di più di 3 milioni di cittadini nei Balcani. L'analisi dei risultati degli scambi di popolazione è contraddittoria. Il miglioramento delle relazioni fra gli stati interessati fu provvisorio. L'antica idea propria dell'impero ottomano, che prevedeva una collaborazione fra i popoli conquistati e il popolo conquistatore, si infranse contro l'inconciliabile resistenza dei cristiani. In momenti di crisi economica e sociale, la sola politica possibile era quella di misure finalizzate allo sterminio degli infedeli. Il risultato dello scambio di popolazione volontario fu più convincente? A dire il vero, la popolazione coinvolta ha dovuto subire una sistematica pressione economica e sociale. Ogni trasferimento di territorio deciso da conferenze internazionali implicava obbligatoriamente un movimento di popolazione. A partire dal congresso di Berlino del 1878 fino al trattato di Craiova del 7 settembre 1940, la Dobrogea settentrionale e meridionale ha subito un movimento obbligatorio di popolazione e colonizzazioni che hanno causato la rovina economica della regione. Questo problema avvelenò stabilmente le relazioni romeno-bulgare. Richiamandosi all'articolo 48 del Trattato di Noi, la Bulgaria ha sempre richiesto un sbocco sul Egeo. Al termine dell'attività della Commissione per l'emigrazione greco-turco, si constatò che la popolazione bulgara in Grecia era divisa. La petizione di Monsignor Neofit e di altri ecclesiastici del 1932 sollevò davanti alla Società delle Nazioni la questione dei diritti religiosi dei circa 150.000 bulgari rimasti in Grecia, dove l'epurazione etnica. L'inchiesta condotta a questo proposito dal segretariato della Società delle Nazioni indusse il governo greco a confermare l'esistenza di 80.000 bulgari in Grecia. Lo stesso governo si opposse però alla ricevibilità della petizione col pretesto che i petizionari avevano avuto la possibilità di emigrare. Le relazioni fra la Grecia e la Turchia migliorarono per un breve periodo dopo lo scambio di popolazioni del 1924, ma la vera ragione di questo miglioramento risiedeva nella volontà di isolare politicamente e politicamente e diplomaticamente la Bulgaria. Le transfert de population est contraire au principe des droits de l'homme et aux normes de droit international. Les justifications politiques d'un tel transfert ne peuvent pas être motivées par de prétendues conditions exceptionnelles de la réalité. Seul un système international efficace de protection des minorités peut prévenir le déclenchement de la violence interethnique, des conflits linguistiques et religieux dans un cadre de cohabitation pacifique des minorités. Ce système, nous avons parlé ces derniers jours, tous nous en avons besoin d'un tel système, un système à créer. C'est ça notre avenir.